Date di morte. Non si sarebbe mai detto che si trattava di un cimitero. La morte non l'aveva affatto rovinato. Era pieno di alberi e cespugli, tranne in un angolo dove c'erano le tombe. Anche queste si stavano rapidamente ricoprendo di verde. I cespugli quasi nascondevano la recinzione in legno grezzo e il cancello di listelli di cedro con una croce sopra, il quale indicava che lo spazio chiuso apparteneva ai morti. Il terreno intorno al cimitero poteva cambiare proprietario, ma la terra del cimitero sarebbe appartenuta ai morti per sempre. Una forza continua di crescita spingeva dalla terra e continuava in eterno, e la terra era tanto più ricca quanto più i corpi dei morti contribuivano a nutrirla. L'insediamento indiano era piccolo, non erano necessarie molte nuove tombe ogni anno. Gli indiani dissodavano solo un piccolo pezzo di terreno alla volta. Quando questo era pieno, ne pulivano dell'altro. Non appena le tombe erano coperte di terra, le viti e i rovi cominciavano ad arrampicarsi sui tumuli. Nessuno li tagliava. Non passò molto tempo prima che la vita stendesse un manto verde sui morti indiani. Era un luogo tranquillo questo cimitero indiano, distante dal villaggio, separato da un grande campo di ceppi paludoso e verde. Gli uccelli chiamavano attraverso il campo, volavano nel tranquillo groviglio di cespugli del cimitero e nidificavano tra il fogliame così recente che non conosceva la sporcizia. Non c'era nessuna strada verso il cimitero che potesse essere impolverata dai piedi o sollevata in nuvole di polvere dalle ruote dei carri funebri. Il villaggio non aveva carri funebri. I morti venivano portati da mani amiche attraverso il campo dei ceppi. La parte boscosa del cimitero scendeva rapidamente verso un lago. Non si poteva vedere l'acqua del lago a causa degli alberi, ma si poteva percepire lo spazio tra il cimitero e la montagna viola al di là. Nel tardo pomeriggio, la grande ombra della montagna attraversava il lago e si posava sul cimitero. Lo aveva fatto alla fine di ogni giornata di sole per secoli, molto, molto tempo prima che quel pezzo di terra fosse un cimitero. Il buio arrivava e teneva l'ombra della montagna lì per tutta la notte, ma quando spuntava il mattino, essa spariva e la montagna spingeva la sua grande cupola viola verso il cielo, sfidando i pini che crescevano alla sua base a crescere più in alto sui suoi nudi fianchi rocciosi. Gli indiani non ostacolano la naturale decomposizione dei loro morti con imbalsamazioni o bare. Quando lo spirito se ne va, restituiscono il corpo alla terra. La terra accoglie il corpo, ne trae nuova vita e bellezza, si affretta a superare ciò per cui gli uomini rabbrividiscono. Dalle tombe spunta veloce la tenera erba nuova che cresce rigogliosa grazie al nutrimento proveniente dai corpi sepolti. Aprendo il cancello, entrai e camminai tra le tombe, scostando le rose selvatiche, i rovi in fiore e i caprifogli scarlatti che abbracciavano le rozze croci di legno, lessi le scritte su di esse: Sacro di Keti, Ipoo. San Boyan, lui morto, Ipoo. Rip, Julie Yecton, Ipoo. Rosi di Joseph, morta, Ipoo. Anche queste scarne parole erano un'innovazione, testimoniavano l'intromissione degli uomini bianchi, mentre un tempo sarebbero stati i simboli dei totem a indicare chi si trovava lì. La lingua indiana non aveva parole scritte. Al posto delle croci sulla tomba sarebbero stati ammassati gli oggetti di chi aveva lasciato il corpo, tutti i suoi tesori più cari, i vestiti, le pentole, i braccialetti, in modo che tutti, attraverso i suoi possessi, potessero vedere ciò che la vita gli o le aveva dato. Ipoo era comune a quasi tutte le tombe. Scrissi le quattro lettere su un pezzo di carta e lo portai a una donna del villaggio. Che cosa significa è sulle tombe? Chiesi. Significa il tempo della morte. Il tempo della morte? Dice quando è morto. Ma tutte le tombe portano la stessa scritta. Quattro di questo tipo? E indicò separatamente ciascuna delle quattro lettere I, P, O, O, dicono che il tempo è adesso. Ma non sono morti tutti nello stesso momento. Alcuni sono morti molto tempo fa e altri muoiono adesso, no? Forse un anno muore solo un uomo e un bambino. Forse l'influenza arriva due volte, una volta lontano, una volta vicino, fa morire molti, molti indiani. Ma se significa il tempo della morte, perché mettono ipo o sulle tombe vecchie e anche su quelle nuove? Difficili pensieri in inglese solcavano la sua fronte immobile. Parole inglesi difficili uscivano dalla sua lingua lenta, a scatti bruschi. Il suo dito marrone toccò la I e la P. Lui lo sa, disse. Lui lo dice. Questo e questo, disse indicando le due O, non hanno importanza. Cambiano ogni anno. Solo questo e questo, indicando di nuovo la I e la P, lui le segna. In questo cimitero il tempo era scandito da secoli. Anni, pochi anni, cosa sono? Insignificanti, come il fatto che l'inversione della cifra 9 la trasforma nella lettera P. Dunque, ipo-o significava 1900. Kitwankol. Quando gli indiani mi parlarono dei totem di Kitwankol, dissi: come posso arrivarci? Non lo so, risposero. Anche gli uomini bianchi mi hanno parlato dei pali totemici di Kitwankol, però quando ho detto loro che volevo andarci mi hanno consigliato di stare alla larga. Ma il pensiero di quei vecchi pali di Kitwankol mi attirava. Mi trovavo a Kitwangak, a una ventina di chilometri da Kitwankol, quando un meticcio di Kitwangak mi disse: e il giovane figlio del capo Kitwankol arriverà domani con un carico di legname. Gli ho chiesto se ti porterà con sé. Lo farà. E come tornerò indietro? Il ragazzo tornerà a Kitwangak dopo 2 giorni. Il figlio del capo, Alec, era timido ma parlava bene l'inglese. Mi disse che dovevo essere al negozio Hudson's Bay alle 8 del mattino successivo. Comprai cibo e olio per zanzare a sufficienza per 2 giorni, poi rimasi seduta davanti al negozio di Hudson Bay dalle 8 alle 11 in attesa, come al solito secondo il tempo degli indiani. Vidi Alec passare per caricare il suo legname. Il carro aveva 4 ruote e un lungo palo. Legò il legname al palo e un sacco di avena al legname. Io dovevo sedermi sull'avena. Davanti c'era una specie di posto per il conducente, non un vero e proprio sedile, solo un paio di casse di carbone e olio legate a delle tavole. 3 uomini sedevano sulle 2 casse, la strada era terribile. Quando prendevamo una buca, l'uomo sul lato inferiore delle casse cadeva. Un vecchio robusto arrancava dietro il carro, a volte si reggeva un po' sull'estremità della lunga pertica che lo faceva andare su e giù come un'altalena. Il vecchio portava un fucile e camminava per la maggior parte del tragitto. Il sole di mezzogiorno bruciava ferocemente sulle nostre teste. Il sacco d'avena non dava sostegno alla mia schiena e i miei piedi penzolavano. Dovevo aggrapparmi all'angolo del sacco d'avena con una mano per non cadere e con l'altra tenevo il mio cagnolino, Ginger Pop. Ogni minuto pensavo che saremmo stati scaraventati giù dal palo. Raramente si poteva vedere il vecchio che guidava a causa delle nuvole di polvere gialla che rotolavano dietro al carro. La macchia ai bordi della strada puzzava. I pony incrostati trascinavano pesantemente gli zoccoli. Il sudore scavava scie di polvere sui loro fianchi. Uno dei 3 uomini sul sedile anteriore del carro sembrava essere considerato un eroe. Gli altri uomini lo interrogarono per tutto il viaggio, anche se di solito gli indiani non parlano mentre viaggiano. Quando uno degli uomini cadde dal sedile, corse intorno al carro e saltò di nuovo su dall'altra parte, senza smettere di fare domande all'eroe. C'erano così tante buche nella strada e gli uomini cadevano così spesso che cambiavano continuamente posto, come gli uccelli su un posatoio quando fa freddo. All'improvviso abbiamo dato un urto così forte che siamo caduti tutti insieme e i cavalli si sono fermati. Quando le ruote si zittirono, sentimmo l'acqua scorrere. Allora il vecchio emerse dalle nuvole di polvere dietro di noi e disse che c'era un ruscello nelle vicinanze. Ci buttammo a pancia in giù sulla terra, tuffammo la testa nell'acqua e bevemmo come cavalli. Gli indiani tolsero i morsi dalla bocca dei loro cavalli e diedero loro da mangiare. Poi strisciarono all'ombra sotto il carro per mangiare anche loro. Io mi sedetti vicino alla ruota più ombreggiata. Era splendido poter raddrizzare le gambe sulla terra. Il e appoggiare la schiena alla ruota. Il vecchio andò a dormire. Dopo che si fu svegliato e dopo che i cavalli ebbero tirato fuori il carro dalla grande buca, ci rimettemmo in marcia. Quando il sole cominciò a calare, eravamo nel bosco e c'erano nugoli di zanzare, spessi come le nuvole di polvere, però dolorosi. Lasciammo che ci mangiassero perché, dopo essere stati sballottati per 7 ore, eravamo troppo stanchi per combatterle. Alla fine arrivammo a un grande avvallamento in cui la strada si snodava attorno al bordo di una gola a forma di ciotola oblunga. In questo avvallamento di terra crescevano alberi. Sembrava non avere fondo. Guardando giù eravamo a livello delle cime degli alberi. La strada era stretta con i bordi divelti. Io avevo paura e dissi: voglio camminare. Alec agitò la mano verso la gola. Chieto ancol, disse, e io vidi alcuni tetti grigi sul lato opposto della conca. Dopo aver girato intorno alla gola e aver risalito la strada sull'altro lato, saremmo arrivati, a meno che non avessimo lasciato la pelle nella conca stessa. Dissi ancora: voglio camminare. I cani del villaggio uccideranno te, il cagnolino, mi avvertì Alec. Ma io camminai dietro la curva e su per la collina finché il villaggio non fu vicino. Poi salii sul carro e entrai a Quito Ancol sul sacco d'avena. I cani si precipitarono fuori in branco, anche la gente del villaggio uscì. Fecero un gran chiasso per l'uomo eroe, stringendosi attorno a lui e chiacchierando. A me non prestarono più attenzione di quanta ne prestarono al sacco d'avena. Entrarono tutti nella casa più vicina, portando con sé Alec, l'eroe, il vecchio e l'altro uomo, e chiusero la porta. Avevo voglia di piangere, appollaiata da sola lassù in cima all'avena e al legname, con i cavalli esausti davanti e i cani che guaivano tutti intorno, senza nessuno a cui chiedere nulla e stanca morta. Alec mi aveva detto che potevo dormire sulla veranda della casa di suo padre perché avevo con me solo una branda e un telo da tenda. E gli orsi venivano spesso in paese di notte, ma come facevo a sapere qual era la casa di suo padre? I cani mi avrebbero sbranata se fossi scesa dal carro e comunque non c'era nessuno a cui chiedere. Improvvisamente qualcosa all'altro capo del villaggio attirò i cani e il branco si allontanò e la polvere mi nascose da loro. Alec uscì dalla casa e disse: adesso ceneremo in questa casa. Poi entrò di nuovo e chiuse la porta. Il carro si trovava nella parte nuova del villaggio. Sotto di noi, sulla destra, potevo vedere una fila di case vecchie. Erano poco illuminate perché la luce si stava spegnendo, ma sopra di esse, neri e chiari contro il cielo, si ergevano i vecchi totem di Quito Ancol. Saltai giù dal carro e mi avvicinai a loro. Quella parte del villaggio era completamente morta. Tra il fiume e i pali c'era una piana di erba verde. Sopra c'erano le case, grigie e diroccate, erano in una lunga fila sinuosa, con ampie facciate senza finestre. I pali totem si trovavano davanti a loro, sulla cima di un piccolo argine sopra la piana verde. C'erano anche alcuni pali giù nella piana e alcune tombe che avevano recinti intorno e tetti in cima. Quando fu quasi buio, tornai al carro. La casa del padre di Alec era l'ultima all'estremità opposta del nuovo villaggio. Era un'unica grande stanza, simile a una sala, ed era costruita con tronchi nuovi. Aveva 7 finestre e 2 porte. Tutte le finestre erano mantenute aperte da bottiglie di olio di ricino blu. Mi sorprese scoprire che il vecchio che aveva arrancato dietro il nostro carro era il capo Dawes, il padre di Alec. La signora Dawes era più importante del signor Dawes. Era una capotribù a pieno titolo e aveva una grande dignità. Nessuno dei due mi parlò quella sera. Alec mi mostrò dove mettere il mio letto in veranda e io appesi la tenda. Mangiai un pezzo di cibo secco e mi avvolsi nelle mie coperte. Non avevo zanzariere e le zanzare mi tormentavano. Nel buio fitto il mio cuore chiese: perché sono venuta? E il buio rispose: lo sai. Al mattino l'uomo eroe venne da me e mi disse: mia suocera vuole parlare con te. Non conosce le parole inglesi, quindi parlerà attraverso di me, attraverso la mia lingua. Mi trovai di fronte alla donna alta e fredda. Piegò le braccia sul corpo e i suoi occhi mi scrutarono il viso. Erano espressivi come se fosse lei stessa a pronunciare le parole invece di usare la lingua dell'eroe. Mia suocera vuole sapere perché sei venuta nel nostro villaggio. Voglio fare dei disegni dei totem. Perché li vuoi disegnare? Perché sono belli. Ormai stanno diventando vecchi e la vostra gente ne fa pochi di nuovi. I giovani non apprezzano i pali totemici come facevano i vecchi. Prima o poi non ci saranno più pali. Voglio fare delle immagini, in modo che i vostri giovani e i bianchi vedano quanto erano belli i vostri totem. La signora Dawes ascoltò quanto il giovane le disse. I suoi occhi scrutarono il mio viso per vedere se stavo parlando rettamente. Poi agitò la mano verso il villaggio. Vai, disse attraverso l'interprete, e vedrò. Non era né amichevole né arrabbiata. Forse stavo per essere cacciata da questo posto in cui era stato così difficile entrare. L'aria era calda e pesante. Mi diressi verso il villaggio vecchio con il cucciolo Ginger Pop alle calcagna. All'improvviso si sentì uno scroscio di guaiti e vidi il mio cagnolino mettere in fuga una mezza dozzina di grossi animali lungo la strada del villaggio. Avevano la coda appiattita, la lingua lunga e guaivano. I Dawes si precipitarono tutti fuori di casa per vedere il motivo di quel rumore e ridemmo tutti insieme così forte che la tensione che prima c'era stata tra noi si ruppe. Il sole impreziosiva i vecchi pali in modo grandioso, erano scolpiti in modo elaborato e con grande sincerità. Più volte era rappresentata la figura di una donna che teneva in braccio un bambino. I bambini avevano volti di vecchietti saggi. Le madri esprimevano tutta la femminilità. Le grandi mani di legno che tenevano il bambino erano così piene di tenerezza che dovevano dilatarsi per contenerla tutta. La femminilità era forte a Kitwan Kaul. Forse, dopo tutto, la signora Dawes mi avrebbe permesso di restare. Mi sedetti davanti a un totem madre e cominciai a disegnare, così piena della sua strana e selvaggia bellezza che non mi accorsi della tempesta che stava arrivando. Finché i totem non divennero neri, lampeggiarono di un bianco vivido e poi tornarono neri. Bang, bang! Arrivarono i tuoni. Le colline si scagliavano lampi a vicenda, muri di pioggia mi inondavano. Ero accanto a una tomba giù nella piana verde. Alcuni dei picchetti della recinzione erano spariti, così strisciai alla tomba con Ginger Pop in braccio per ripararmi sotto il suo tetto. Sopra la tomba crescevano ortiche con zanzare nascoste sotto le loro foglie. Mentre abbattevo le ortiche con il mio cavalletto, urtai la testa di un grosso orso di legno accovacciato sulla tomba. Mi spaventò. Era dipinto di rosso. Mentre mi sedevo su di lui, il mio piede urtò qualcosa che fece un rumore sferragliante. Era un sonaglio da sciamano. Questa doveva essere la tomba di uno sciamano, di un uomo medicina, e questo è il sonaglio che aveva usato per spaventare gli spiriti maligni. Gli sciamani praticavano la magia nera. Il corpo di quell'uomo o donna giaceva qui a pochi metri sotto di me, nella terra. Al solo pensiero mi precipitai verso la casa della comunità distrutta sulla riva sovrastante. Ma tutti i cavalli indiani erano arrivati per primi e avevano preso come riparo l'unico angolo della casa che aveva un tetto. Misi il mio sgabello vicino al muro e mi ci sedetti sopra. L'acqua scorreva a fiumi lungo il muro. Il cane rabbrividì sotto il mio cappotto. Eravamo entrambi bagnati fino all'osso. Il mio sacco da disegno era così pieno d'acqua che quando lo svuotai a terra aumentò la pozzanghera in cui eravamo seduti. Dopo 2 ore la pioggia cessò, improvvisamente. I cavalli stavano rigidi con la pelle tremante e quando si scrollarono mi spruzzarono tutta. Uno dopo l'altro uscirono attraverso un buco nel muro. Quando i loro zoccoli toccarono il battiscopa si sentì un tonfo sordo. Anche Ginger Pop si scrollò. Io invece potei solo sgocciolare. L'acqua sgorgava dagli occhi dei totem e dalla punta dei loro nasi scolpiti. Nuovi piccoli rivoli gocciolavano sulla pianura verde. Il grande fiume era stato sferzato fino a diventare schiumoso. Una macchia simile a nebbia bollente incombeva su di esso. Quando tornai al villaggio nuovo, trovai il mio letto e le mie cose in un angolo della grande sala dei Dausis. L'eroe mi disse: «Mia suocera dice che puoi vivere a casa sua. Ecco una sedia a dondolo per te». La signora Dawes considerò la mia gratitudine come qualcosa di stupido. Diedi al signor Dawes $1 e chiesi di poter avere un fuoco per asciugare le mie cose e preparare il tè. C'erano due stufe, quella all'estremità della stanza era accesa e presto fu accesa anche la mia e rese accogliente il mio angolo. Quando gli indiani mi accettarono come una di loro, mi sentii molto grata. Le persone che vivevano in quella grande stanza dei Dawsis erano due figlie sposate, i loro mariti e i loro figli, il figlio Alec e un'orfana di nome Lizzie. La vecchia coppia andava e veniva continuamente, ma mangiava e dormiva in una baracca sul retro della nuova casa. Questo piccolo posto era stato costruito intorno a loro. Il pavimento era di terra, le pareti di cedro, il fuoco a terra mandava il suo fumo attraverso un buco nel tetto. Il salmone essiccato era appeso a delle rastrelliere, il materasso dei vecchi era sul pavimento. Il posto era pregno della loro energia. I Dawsis erano contenti che i loro figli avessero una casa grande e bella e fossero moderni, tuttavia per se stessi preferivano la loro vecchia baracca. La vita nella grande casa era molto interessante. Un bambino dondolava nella sua culla appesa alle travi. Chiunque passasse faceva dondolare la culla e il bambino tubava e gorgogliava. C'era una bambina storpia di 6 anni con i denti bianchi sotto la pelle bruna che stava seduta su una sedia tutto il giorno. E c'era l'orfana Lizzie che sgattaiolava tra i cespugli umidi e tornava con una fragola selvatica o un fiore nella manina sudicia e inginocchiata accanto alla sedia della piccola storpia apriva le dita all'improvviso per farle una sorpresa. In questa casa non c'era fretta, né rimproveri, né rudezza. Quando qualcuno aveva sonno dormiva, quando aveva fame mangiava. Se erano dispiaciuti piangevano, se erano contenti cantavano. A loro piaceva il temperamento focoso di Ginger Pop, la sua inclinazione del naso e soprattutto il modo in cui teneva la casa libera dai cani indiani. Era Ginger che colmava il baratro tra la loro lingua e la mia con una risata. Il russare di Ginger era l'unico suono in quella grande stanza di notte. Gli indiani dormivano silenziosamente. L'orfana Lizzie era timida come un coniglio, ma assolutamente inconsapevole di sé. Era lei che sistemava il cibo sulla grande tavola e sparecchiava i piatti. Non sembravano esserci orari particolari per i pasti. Lizzie dava sempre una lunga leccata alla parte superiore del barattolo di marmellata quando lo passava. La prima mattina che mi svegliai dai Dawsis, andai molto presto a lavarmi nel ruscello sotto casa. Ero inginocchiata sulle pietre e mi lavavo i denti. Faceva molto freddo. All'improvviso alzai lo sguardo. Lizzie era vicino a me e mi guardava. Quando alzai lo sguardo si allontanò come un cerbiatto, lasciandosi dietro il secchio dell'acqua. Più tardi, la signora Dawes si avvicinò al mio angolo di casa, portando una bacinella di latta. Dietro di lei c'era Lizzie, con una piccola brocca di vetro piena d'acqua, e dietro Lizzie c'era l'eroe. Mia suocera dice che il fiume è troppo freddo per lavarsi. Ecco l'acqua e una bacinella per te. La mattina dopo tutti mi guardavano lavarmi. Erano molto interessati, soprattutto al lavaggio delle orecchie. Un giorno, dopo il lavoro, trovai la famiglia Dawes tutta seduta sul pavimento. Al centro del gruppo c'era Lizzie. Stava battendo qualcosa in un secchio, battendolo con le mani. Le sue braccia erano gonfie di schiuma, rosa fino ai gomiti. Ognuno infilò la mano nel secchio di Lizzie e ne estrasse un po' di schiuma nell'incavo delle dita. Poi diede lunghe e deliziate leccate. Invitavano anche me a leccare. Era la bacca del sapone. Cresce nei boschi. Quando si batte la bacca si forma una schiuma che ha uno strano sapore amaro. Gli indiani ne vanno matti. Per 2 giorni, dall'alba al tramonto lavorai nella parte vecchia del villaggio. Il terzo giorno Alec mi avrebbe riportata a Kituangak, ma quella notte cominciò a piovere. Piove per 3 giorni e 3 notti senza sosta. La strada era impossibile. Avevo fatto provviste solo per 2 giorni. Ero qui da 5 e avevo dato tutti i pezzi migliori della mia scatola alla piccola storpia. Tutto il cibo che mi era rimasto per gli ultimi 3 giorni era costituito da gallette dure e uvetta. Bevevo acqua calda e dominavo la mia fame al ritmo della pioggia che batteva sulla finestra. Ginger Pop sgranocchiava le gallette con noncuranza, divertendo tutti. Gli Gli indiani avrebbero condiviso con me la pagnotta e il barattolo di marmellata, ma non dissi loro che non avevo cibo. Il pensiero della lingua di Lisi che leccava il barattolo di marmellata mi fermò. Quando pioveva, gli indiani sonnecchiavano pesantemente, come il tempo buio. Il sesto giorno del mio soggiorno a Kitwankul, il sole tornò a splendere, ma dovemmo aspettare un po' per far defluire le pozzanghere. Regolai i miei obblighi e salutai i signori Daus. Il carro leggero che mi stava portando via sembrava lussuoso dopo quello su cui ero arrivata. Salì accanto ad Alec e lui raccolse le redini e spronò il cavallo. La signora Daus, seguita dal marito, uscì dalla casa e fece un cenno di saluto. Parlò ad Alec. «Mia madre vuole vedere i tuoi disegni». «Ma glieli ho mostrati tutti prima che venissero impacchettati». Quando glieli avevo mostrati mi era sembrata indifferente. Mia madre desidera rivedere i disegni. Mi arrampicai sul retro del carro, disfeci le tele bagnate e aprii i quaderni di schizzi. Li sfogliò tutti. I due migliori pali del villaggio appartenevano alla signora Daus. Discuteva e discuteva con il marito. Dissi ad Alec di chiedere se sua madre voleva che le facessi avere le foto dei suoi pali. In caso affermativo, gliele avrei mandate all'Hudson's Bay Store di Kitwangak. Il collo della signora Daus si piegò, la sua testa annuì violentemente e la vidi sorridere per la prima volta. Rimpacchettando, mi arrampicai sullo schienale del sedile per raggiungere Alec. Gidap! Le redini si mossero e partimmo. La polvere si era depositata, tutto era fresco e frizzante e l'appetito delle zanzare era molto forte. Quando fui di ritorno a Kitwangak, la polizia a cavallo venne a trovarmi. «È stata a Kitwankol?» «Sì». «Come l'hanno trattata gli indiani?» «Splendidamente». «Hanno imparato la lezione, eh?» disse l'uomo. «Abbiamo avuto un sacco di problemi con quella gente. Hanno scacciato i missionari e buttato fuori i guardiani a colpi d'ascia. Semplicemente non vogliono che i bianchi entrino nel loro villaggio. Non avrei mai consigliato a nessuno di andarci, soprattutto a una donna». «No, no, avrei certamente raccomandato di stare alla larga». «Beh, allora sono contenta di non aver chiesto il vostro consiglio», dissi. «Forse è perché sono una donna che sono stati così buoni con me». «Uno degli uomini che sono saliti sul carro con voi veniva direttamente dalla prigione, un uomo feroce e problematico». «Beh, ora sapevo chi era l'eroe». Canoe. Tre tori rossi, creature bestiali e pigre con il muso bianco e gli occhi iniettati di sangue, e i missionari mi fecero desiderare di allontanarmi dal villaggio. Ma non potevo, non c'erano barche. Sapevo quanto fossero pericolanti i tetti e le legnaie indiane. Questo poi era il tetto più ripido di tutti e io ansimavo. Non è facile arrampicarsi con un cagnolino in braccio e il fiato caldo di tre tori alle spalle. Ah, quei tre detestabili musi bianchi erano ammassati intorno alla mia tela e mettevano terribili sbuffi e zoccolavano sulla sabbia. Al di là dell'acqua apparve un piccolo puntino che cresceva e cresceva quando i tori decisero di proseguire. Era una canoa di dimensioni considerevoli che si dirigeva verso le distese di fango oltre la spiaggia. La marea era molto alta. Quando la canoa si arenò laggiù nel fango, una famiglia di indiani si precipitò giù dalla fiancata e cominciò ad arrancare pesantemente nella melma appiccicosa verso una capanna indiana sopra la spiaggia. Li incontrai dove la sabbia e il fango si univano. «Torni ad Halliford, mi porterai con te?» «Aha!» lo avrebbe fatto. «Quando?» «Abbastanza presto». Corsi su per la collina fino alla casa della missione. Il pranzo era pronto, ma non mi fermai. Radunai le mie cose in fretta e furia, corsi giù per la collina fino alla capanna indiana e mi sedetti su un tronco in spiaggia da cui potevo osservare i movimenti degli indiani. Gli indiani raccolsero i lamponi da un boschetto piccolo sul retro della casa, presero in prestito un enorme bollitore dalla casa più lontana del villaggio. Il nonno lo andò a prendere con andatura molto lenta. Le donne portarono i secchi al rubinetto del villaggio, accesero il fuoco. Riscaldarono l'acqua, lavarono i panni, li stesero, raccolsero lamponi, prepararono la pasta, impastarono il pane, lo cossero, Bollirono la marmellata e la imbottigliarono, cucinarono i pasti e li consumarono. Il nonno e il bambino dormirono sul pavimento della cucina, mentre io stavo sempre seduta sul mio tronco, con il mio cagnolino in grembo, aspettando. Quando i tori scendevano verso di noi, scappavo stringendo il cane. Quando i tori erano passati, mi sedevo di nuovo ad aspettare. Ma anche quando correvo, guardavo la canoa. A volte andavo alla porta e chiedevo: "Quando partiamo?" "A momenti", rispondevano, oppure "molto presto". Suggerii di salire alla casa della missione per prendere qualcosa da mangiare, ma loro scossero violentemente la testa e si misero a correre in direzione della canoa dicendo: "Molto presto, subito". Nel mio zaino da disegno trovai un biscotto e una mela avvizzita. Puzzavano di acquaragia e mi tolsero l'appetito, ma al tramonto li mangiai avidamente. Non divenne buio. Il sole e la luna si incrociarono prima che il giorno finisse. A poco i tori risalirono la collina e si sdraiarono davanti al cancello della missione per passare la notte. Nella casa gli indiani accesero una lampada a carbone e olio, la marea portò la canoa a riva, galleggiava lì davanti a me. Alle 9 tutto era pronto. Gli indiani andavano avanti e indietro per stivare nella canoa la marmellata, il pane caldo, il bucato e vari fagotti. Mi fecero un cenno. Quando uscii, l'acqua era gelida contro i miei piedi nudi. Mi diedero il posto a prua, un seggiolino rotondo come un pollaio. Mi sedetti a terra e appoggiai la schiena contro il seggiolino, tenendo Ginger Pop in grembo. Dietro di me, nella punta della canoa, c'erano due cani indiani che continuavano a infilare i musi rognosi sotto le mie braccia, annusando il mio cagnolino. Il nonno prese un remo, un bimbetto di circa 6 anni l'altro. La madre a poppa teneva un bambino addormentato sotto lo scialle e timonava con la pagaia. Una bambina accanto a lei si sistemò su una protuberanza coperta da uno scialle. I bambini si sistemarono tra le masserizie e si addormentarono subito. Sciolta dal suo ormeggio, la grande canoa scivolò in avanti. L'uomo e il ragazzo la guidarono controcorrente. Quando la incontrò, la canoa sbandò come un cavallo impaurito. Poi sembrò rassegnarsi e si abbandonò alla guida, con la testa di lupo che si stagliava fiera e alta sull'acqua. Il bambino, canottiere, cadde in avanti nel sonno e rotolò tra i fagotti. Il vecchio, che trasportava il remo del bambino e il proprio, si accasciò tra le marmellate, i pani e i panni, appoggiando la schiena piegata contro il timone. La canoa passò davanti a coste piene di alberi, alberi che sovrastavano spiagge sassose, alberi trattenuti da scogliere rocciose, abeti appuntiti che si arrampicavano in masse scure sui fianchi delle montagne, con la luce della luna che argentava il loro nero. Il nostro procedere era impercettibile. L'unica cosa che si muoveva era la pagaia con cui la donna timonava la canoa trasportata dalla corrente, tagliando l'acqua silenziosamente. Il tempo e la struttura svanirono, cessarono di esistere. Il giorno era scomparso, eppure non era notte. L'acqua non era né bagnata né profonda, solo una morbidezza diffusa dalla luce. Mentre la canoa scivolava, il suo carico umano era silenzioso, come la vita del cedro che un tempo l'aveva riempita. Ormai aveva chiuso con la foresta. Quando l'avevano spinta in mare, le avevano strappato il cuore. Accettò docilmente il nuovo elemento, assecondando la marea. Quando la marea o il vento l'attraversavano, la canoa diventava fragile. Qualche elemento della foresta si aggrappava ancora alla scorza cava del cedro che non sopportava la spinta irrequieta delle onde. Solo una volta, durante tutto il viaggio, nella canoa furono scambiate delle parole. Il vecchio, rivolgendosi a me, disse: "Da dove vieni?" "Victoria." "Victoria? Victoria è un bel posto. Vancouver, Seattle, tanti, tanti problemi. Victoria ancora piena." Era mezzanotte quando il muso di lupo della nostra canoa si avvicinò all'approdo di Halliford. Tutto il villaggio era buio. Il nostro gruppetto si stagliò per un attimo sul pontile mentre l'argento del pagamento passava dalla mia mano a quella dell'indiano. "Buonanotte." "Notte." Un puntino solitario e un gruppo di puntini si spostarono sulla spiaggia, superarono il limite della visibilità e si immersero nell'immensa notte. Lentamente la canoa si allontanò dall'approdo illuminato dalla luna finché, giunta alla fine della corda che la legava, rimase vuota, galleggiando tra le ombre della foresta, riflessa nell'acqua. Fine.